Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Al tavolo Varzila l'azienda propone di garantire la produzione fino alla primavera del 2023 in cambio dello sblocco delle consegne. No da parte sindacale e si lavora sulle tre proposte per il sito industriale. I settori in crisi. Nelle cartiere mancano gli ordini e i dipendenti vanno in cassa integrazione. Ristorazione collettiva alle prese con l'incremento dei costi e il mancato adeguamento dei prezzi. Rinviato a giudizio il 21enne accusato dell'omicidio di un minorenne in una palazzina del centro di Trieste. Dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato. Illustrato in commissione regionale il nuovo disegno di legge sul commercio. Contrapposizione sulla norma che cancella ogni limitazione per le giornate e l'orario di apertura. Le imprese della regione all'avanguardia nel campo della sostenibilità, i numeri forniti nel corso di un incontro promosso dal CATAS dimostrano la ripresa del settore legno arredo. 1.300 le richieste del bonus psicologo per i ragazzi in regione, si avvicina il numero massimo di domande ammissibili. Il violoncellista Mario Brunello, protagonista del concerto di questa sera al Comunale di Monfalcone, in programma pagine di Bach. Per il volo del jazz, il bassista Richard Bona suonerà allo Zancanaro di Sacile, musical al Politeama Rossetti con Sette Spose per Sette Fratelli. Calcio, domenica il via ai mondiali in Qatar. Le critiche del giornalista Bruno Pizzul per la sede e il periodo scelto per la rassegna più importante del mondo del pallone. 7:19 minuti e 30 secondi, buona giornata da Lara Zani e Paolo Roncoletto. Anzitutto uno sguardo al tempo, il cielo è coperto sulla regione, ci sono state delle piogge nella notte, in particolare a Trieste c'è stato un nubifragio poco prima dell'alba. Uno sguardo alle temperature rilevate alle 7, a Trieste abbiamo 12 gradi e 8 decimi, a Gorizia 10 gradi e mezzo, 10 gradi a Udine e a Pordenone, 8 gradi a Tolmezzo, 5 gradi a Forni di Sopra, 4,5 a Tarvisio, 2 gradi a Sappada, 2 gradi anche sullo Zoncolano e sul Lussari. Torniamo sulla costa, 13 gradi a Lignano, poco meno di 11 a grado. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Ancora nel pomeriggio probabili piogge, in genere deboli e sparse a ovest e in montagna, moderate altrove o localmente abbondanti, specie su Isontino, Carso e Trieste, dove non è escluso anche qualche rovescio temporalesco. Quota neve a circa 1700 metri, dal pomeriggio possibile miglioramento del tempo, ma con piogge residue più probabili a est. Al tavolo ministeriale di Varzila i sindacati hanno risposto no alla proposta dell'azienda di garantire la continuità produttiva fino alla primavera del prossimo anno in cambio dello sblocco dei motori che devono essere consegnati ai committenti. Il primo tavolo ministeriale Varzila del nuovo governo si chiude con un nulla di fatto. I sindacati hanno risposto picche alla proposta dell'azienda di garantire l'attività produttiva fino alla tarda primavera del 2023, con l'impegno a non riaprire la procedura di licenziamento in cambio dello sblocco delle consegne. Rimangono così fermi in fabbrica i motori ordinati da Fincantieri e A2A. Fiom, Fim e Wilm non accettano una data di scadenza al buio senza che siano presi prima patti chiari sul passaggio dello stabilimento a un nuovo compratore. Esito ormai dato per scontato, vista la volontà di Varzila di accentrare la produzione di motori in Finlandia. Posizione condivisa dall'USB che ha partecipato in rappresentanza dell'indotto. Il capo di gabinetto del Ministero, Federico Eichberg, ha riferito di 3 interlocuzioni con soggetti interessati ad acquisire l'impianto. L'azienda parla di 5 possibili investitori. Per i sindacati lo stabilimento deve rimanere nella filiera della cantieristica navale anche per scongiurare il rischio che le attività sostitutive comportino un minor livello occupazionale. Per tale ragione vorrebbero saperne di più a proposito di questi possibili nuovi investitori. Varzila ha ribadito che intende mantenere a Trieste ricerca e sviluppo e servizi ai clienti con circa 500 dipendenti impiegati e ha promesso un piano industriale in merito su richiesta della regione con l'assessore Alessia Rosolenne. I rappresentanti dei lavoratori si aspettano risposte in un tavolo da riconvocare a breve, forse già per la settimana prossima. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolena ha detto che occorre individuare un soggetto imprenditoriale che rilanci la parte produttiva, un'azione che deve essere portata avanti in piena trasparenza tra tutte le componenti del tavolo, affinché la scelta sia pienamente condivisa. E il piano industriale, che riguarda gli oltre 500 addetti che resteranno in Varzila nei reparti che non verranno dismessi, sarà sottoposto anch'esso a un processo di condivisione. Prosegue per altre 2 settimane lo stop produttivo alla cartiera di Duino. La notizia è stata data dal consigliere regionale dell'Unione Slovena Marco Pisani. La cassa integrazione è stata determinata dalla mancanza di ordini e non dai costi dell'energia. Analogo provvedimento si prospetta anche per la cartiera di Ovaro, ma è tutto il settore che accusa una fase di crisi dovuta al rallentamento del mercato. L'unico stabilimento in regione che non ha problemi di ordine è la Sofidel di Monfalcone, che produce tissue, ovvero carte per uso alimentare e carta igienica. Le aziende della ristorazione attraversano una fase di forti difficoltà a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia. Le cooperative del settore chiedono provvedimenti per consentire alle aziende di garantire la continuità del servizio. In regione ogni giorno quasi 3 bambini su 4 pranzano a scuola e complessivamente più di una persona su 10 consuma un pasto in mensa. Più di 130.000 pranzi al giorno in Friuli Venezia Giulia, un settore che occupa oltre 4.000 addetti in regione. Quell'impresa riusciva a sopravvivere, nel migliore dei casi, con un margine massimo del 5% prima che i prezzi andassero fuori controllo. La situazione per le imprese che si occupano di ristorazione collettiva non è più economica sostenibile. Servono interventi immediati per evitare lo stop ai servizi essenziali per scuole e strutture sanitarie. Un grido d'allarme lanciato a causa dei forti rincari a cui deve far fronte, tanto che riuscire ad assicurare l'erogazione dei servizi, soprattutto nei contratti con la pubblica amministrazione, sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende stesse. I prezzi non sono aumentati solo per le costruzioni, ma anche per le mense delle scuole e degli ospedali. Solo che in questo caso le cooperative e le aziende che lo gestiscono non hanno ottenuto alcuna revisione dei contratti pubblici e se lo prevedono sono incrementi Istat. Livio Nanino, presidente Lega Coop Friuli Venezia Giulia. L'Istat prende un paniere che va bene per le famiglie, che va bene per il valore medio dell'incremento dei costi, ma qui stiamo parlando di un settore specifico dove le materie prime alimentari non sono aumentati dell'8-10% quella che è l'inflazione, ma in qualche caso siamo al 30%, siamo al 50%, ce lo raccontano ogni giorno, dall'olio d'oliva, ma al pane, ai prodotti ortofrutticoli. L'inflazione dei beni alimentari è più alta dell'inflazione generale. Non è più sostenibile proseguire a lavorare con prezzi fermi al 2018. Alcuni prodotti base per la cucina sono aumentati in modo non prevedibile. Ancora il presidente Nanino. Bisogna dare la possibilità alle amministrazioni pubbliche, alle stazioni appaltanti, di fare una revisione in funzione di quelli che sono gli oggettivi incrementi che ci sono stati. E negli appalti futuri, che nei bandi di gara sia assolutamente inserita una possibilità di revisione di fronte a dati oggettivi, evidentemente. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, rinviato a giudizio per omicidio volontario con l'aggravante di futili motivi ma senza che venga contestata la premeditazione, Ali Kashim, il 21enne accusato dell'omicidio di Robert Trajkovic, 17 anni, strangolato con un laccio nella notte tra il 7 e l'8 gennaio nel sottoscala di una palazzina in via Rittmeyer, nel centro di Trieste. La prima udienza del processo in corte d'assise si terrà il 31 gennaio. I genitori, i fratelli e due nipoti di Trajkovic si sono costituiti parte civile. Si chiamava Agostino Tonussi, l'87enne di Sacile, trovato morto ieri pomeriggio sopra Polcenigo, in prossimità di Casera Costa Cervera. A notarlo esanime all'interno di una vettura accostata a bordo strada due ciclisti che hanno dato l'allarme. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari, arrivati con l'ambulanza perché l'elicottero è stato bloccato dalla scarsa visibilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sacile e sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Il direttore generale di Asugi Poggiano ha convocato il tavolo chiesto dai sindacati sulla situazione del pronto soccorso e della medicina d'urgenza di Trieste. L'incontro si terrà martedì alle 15. Il confronto era stato chiesto come precondizione per non procedere con lo stato di agitazione già autorizzato dall'assemblea dei lavoratori del contratto comparto. Come infermieri, OSS e barellieri, all'incontro parteciperanno anche i sindacati dei medici. L'assessore regionale alle attività produttive Bini ha illustrato in seconda commissione consiliare regionale il disegno di legge che aggiorna tutta la serie di norme riguardanti il commercio. Semplificare e rendere più attuali le leggi che regolano il commercio in regione, come ad esempio le procedure delle vendite promozionali e di liquidazione. La seconda commissione del Consiglio regionale ha presentato un disegno di legge che rispolvera le norme ora in vigore e che risalgono al 2005. In 17 anni il mondo del commercio è cambiato e non poco. Il nuovo DDL semplifica le comunicazioni di inizio, subentro e cessazione attività, definisce nuove forme forme di vendita come l'home food, il cibo cucinato in casa e venduto per asporto, e l'home restaurant, quando all'occasione casa propria diventa un piccolo ristorante. Ora dovranno seguire dei regolamenti per permettere a queste attività, spesso svolte in nero, di emergere ed essere inserite nel registro delle imprese. La nuova legge del commercio snellisce anche la burocrazia delle vendite online e risolve i contrasti ora esistenti fra leggi europee, statali e regionali. L'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha spiegato che questo adeguamento della normativa rappresenta la prima pietra di una riforma del terziario che si realizzerà con la prossima legislatura regionale. Al disegno di legge hanno contribuito anche l'Associazione Nazionale dei Comuni, ANCI, gli enti locali e le associazioni di categoria. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Nessun limite di orario e di giornate, le attività commerciali avranno la facoltà di rimanere aperte anche 7 giorni su 7 per tutte le 24 ore, se lo riterranno conveniente. A prevederle la massima liberazione è il disegno di legge 181. L'unico obbligo, ha ricordato l'assessore Bini, rimarrà quello di esporre al pubblico in modo visibile orari e giorni di apertura. Il provvedimento cancella tutte le chiusure domenicali o legate alle festività, sulla base, ha spiegato ancora l'assessore, di una sentenza tombale della Corte Costituzionale. La deregulation è stata criticata da due gruppi di opposizione. Per il Movimento 5 Stelle, Cristian Sergo ha parlato di pianto del cuore, convinto che si possano trovare le motivazioni di interesse generale per limitare le aperture a tutela degli interessi, a tutela degli stessi commercianti e dei consumatori, come peraltro è avvenuto durante alcune fasi della pandemia. Anche secondo Sergio Bolzonello del PD, è vero che c'è una sentenza, ma nulla è davvero tombale se non per un certo periodo di tempo. Imprese del Friuli Venezia Giulia più avanti rispetto alla media nazionale negli ecoinvestimenti e nei cosiddetti green jobs, le professionalità legate al mondo della sostenibilità. A fare il punto sulla situazione dopo l'approfondimento su questi temi organizzato assieme al CATAS di San Giovanni al Natisone è il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni da Pozzo. Direi che sono abbastanza bene, l'abbiamo visto anche la presentazione al CATAS dei servizi e ci sono stati evidenziati quelli che sono le attività che riguardano la sostenibilità e le aziende che si appoggiano al nostro centro servizi, appunto del CATAS, ci hanno evidenziato una percentuale decisamente superiore alla media nazionale. Questo è un fatto molto positivo, anche perché capiamo tutti che la sostenibilità è un concetto molto ampio che parte dalla produzione, va al consumatore per toccare tutti gli ambiti delle amministrazioni pubbliche. È un percorso non facile, non semplice, non breve, però l'importante è essersi avviati su questa strada. E qual è in questo il ruolo del CATAS? Il CATAS è un centro di eccellenza a livello internazionale, chiaramente opera sulla certificazione, sulla sostenibilità per i beni legati al prodotto dell'arredo legno, ha una sua clientela sparsa su tutti i continenti ed è un punto di eccellenza all'interno della nostra regione, un fiore all'occhiello se non una partecipata del sistema camerale, e quindi può avere un ruolo estremamente utile per far capire soprattutto ai produttori di quello che deve essere una modalità per instradare un percorso di sostenibilità all'interno delle loro produzioni. Come affrontare con quali risorse la transizione energetica, su quali fronti, su quali fonti rinnovabili puntare? Il tema energetico può diventare materia di contrattazione tra parti sociali e istituzioni? Sono queste le domande al centro di una tavola rotonda promossa dalla CISL di Trieste Gorizia e dalla FIM CISL del Friuli Venezia Giulia, in programma alle 9 a Monfalcone nell'auditorium dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico. L'obiettivo è quello di aprire una riflessione sul territorio con le imprese e la politica sul futuro energetico e soprattutto individuare percorsi e strategie da mettere in campo il prima possibile. L'iniziativa sarà presentata dal referente FIM Alessandro Contino, mentre gli spunti di discussione saranno affidati a Vittorio Murer, Managing Director Westinghouse Italia, e Luca Palumbo, Senior Advisor di E4SD. In aumento il disagio psicologico e con esso anche il bisogno di sostegno, soprattutto fra i più giovani. A confermarlo sono anche le richieste per il bonus psicologo messo in campo da governo e regione. C'è tempo fino a fine mese per farne domanda, ma il tetto delle 1.300 richieste per il bonus psicologo riservato ai ragazzi messo in campo dalla Regione è ormai quasi raggiunto. In 7.000 invece dal Friuli Venezia Giulia hanno richiesto quello nazionale, rivolto a tutti, un bisogno di sostegno consistente e crescente, soprattutto fra i più giovani, rilevano gli psicologi, che a loro avviso non trova risposta a fronte di cronici ritardi nella prevenzione. Suni Falaschi, psicologo cognitivo-comportamentale. La prevenzione che oggi riusciamo a fare, ad esempio nell'ambito psicologico, è molto limitato. Anche il bonus psicologico è comunque un ottimo strumento, ma è solo un inizio. Infatti, ad esempio, i giovani avrebbero bisogno nuovamente di strumenti di aggregazione, luoghi di aggregazione dove poter effettivamente socializzare liberamente e poter crescere dal punto di vista umano. Nell'ultimo anno l'Osservatorio Nazionale sui fenomeni correlati al disagio ha registrato in Regione un aumento di richieste di sostegno di oltre il 40% nella fascia d'età tra i 6 e i 14 anni e con un picco del 20% dei casi più gravi. Ad allarmare è anche l'aumento di fragilità nella fascia intorno ai 50 anni, quella che più fatica a chiedere aiuto. A dare la misura del fenomeno anche il numero di interventi sulle emergenze operati dal 112, 57 solo nell'ultimo mese, con una media di 2 al giorno. Federica Parri, psicologa e psicoterapeuta, referente dell'Osservatorio in Regione. Le cause principali sono l'isolamento sociale, la difficoltà a vedere un futuro e problemi appunto di ansia e depressione legati al disagio economico. Bisognerà fare in modo che ci sia un più facile accesso al sostegno psicologico, lavorare soprattutto con i bambini e con i ragazzi sui loro disturbi, anche perché poi diventano cronici. Quindi lavorare sulla prevenzione diventa anche un risparmio economico. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Confronto sulla sanità in Friuli Venezia Giulia organizzato dai circoli del PD di Pasian di Prato, Campoformido, Martignacco, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco alle 18 nella sala delle associazioni polifunzionali a Colloredo di Prato. Quarto incontro a ingresso libero del Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia oggi alle 18 nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali a Gorizia. Il titolo dell'incontro sarà Psicologia, multilinguismo e multiculturalismo, il vantaggio di essere multipli, e sarà Maya Rock, professoressa associata di psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione dell'Università di Padova a parlarne, introdotta da Claudio Tonzar, presidente di psicoattività Università di Urbino, e da Tiziano Agostini, Università di Trieste. Alle 20 il festival si sposta oltre confine al castello di Kronberg di Nova Gorizia con un concerto realizzato nell'ambito del festival Nei suoni dei luoghi 2022. Le giovani promesse della musica classica Anna Ratti al flauto e Sara Zoto alla viola, guidate da Nicoletta Sanzin, presenteranno al pubblico un programma di Rota, Teani, Debussy, Dubois, Crec. A 100 anni dalla fine della Grande Guerra, che cosa è rimasto nella nostra politica e cultura dell'irredentismo che ha permeato la cultura di queste terre, dall'Istria al Friuli, nella seconda parte del XIX secolo e nella prima di quello successivo? È il tema dell'incontro con il giornalista e scrittore Pierluigi Sabatti, proposto alle 18 nell'Abbazia di Rosazzo, a Manzano. Dalla rassegna I colloqui dell'Abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga, curata da Elda Felluga e Margherita Reguitti. Il ridentismo è un termine riportato in auge dalla tragedia ucraina, nonostante la derivazione dalla religione. Per capire questo movimento, le tre figure di riferimento sono Pasquale Besenghi, degli Ughi, Scipio Slatapere e Teodoro Maier. Proprio a quest'ultimo è dedicato l'ultimo libro di Pierluigi Sabatti, dal titolo Il piccolo di Teodoro Maier, edito da Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia. Gioca la carta di Bach il cartellone musicale del Teatro Comunale di Monfalcone, con un trio d'eccellenza: Mario Brunello al violoncello piccolo, Francesco Galligioni alla viola da gamba e al violoncello, Roberto Loreggiana al cembalo e all'organo. L'appuntamento con la musica classica di questa sera alle 20.45 è integralmente dedicato alle 6 sonate a cembalo certato e violino solo, col basso per viola da gamba accompagnato, se piace, di Johann Sebastian Bach. Il primo dei due appuntamenti di Progetto Bach in programma in questa stagione presenta il capolavoro di compiutezza compositiva barocca esaltato dall'impasto sonoro innovativo creato dai tre musicisti. Sarà Ernest So il protagonista del nuovo evento della stagione concertistica Fazioli, in programma alla Fazioli Concert Hall di Sacila alle 19.30. Ernest So condurrà il pubblico attraverso compositori e opere del Novecento che sono in prima linea nei movimenti sociali, da figure dimenticate e riscoperte attraverso nuove pubblicazioni a donne compositrici della nostra epoca, fino alla discussione sulla distinzione fra cultura russa e ucraina. Nato ad Hong Kong, dopo essersi formato e aver raccolto i primi successi in Asia, Ernest So ha studiato alla Juilliard School di New York. Concertista e insegnante, accompagna all'interesse per la tecnologia costruttiva del pianoforte e quello per le attività benefiche. Per il terzo appuntamento della rassegna Perle Musicali in Villa alle 20.30 al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento sarà di scena il Trio des Alpes, formazione con sede in Svizzera, ospite dell'Associazione Musica Pura e del Comune. L'ensemble, composto da Anna Kotkova, Claude Horry e Corrado Greco, proporrà un programma in omaggio alle compositrici del Novecento e contemporanee, con brani di autrici viventi come l'americana Linda Dusman e la svizzera Maria Bonzanigo. Risalendo indietro nel Novecento, interessante sarà anche la pagina scelta dalle opere della celebre violista e compositrice inglese Rebecca Clark. Nello stile della rassegna di musica allo specchio, il repertorio sarà concluso da uno degli autori di cui l'ensemble è specialista, ovvero Antonin Dvorak. Tornano i concerti a Palazzo, la rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Udine a corollario della loro 101ª stagione concertistica. In sala Iace, oggi alle 17, è in programma la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. L'esecuzione è affidata al duo formato da Mauro Loguercio ed Emanuela Piemonti, rispettivamente violino e pianoforte. Strumenti per i quali Hans Sitt, violinista virtuoso, compositore e didatta nato a Praga nel 1850, ha trascritto la partitura. Emanuela Piemonti, titolare della cattedra di musica da camera al Conservatorio di Milano, si è esibita nei maggiori teatri italiani in Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Israele, Australia e Cina. Per festeggiare i suoi 18 anni il volo del jazz di Circolo Controtempo si regala, e regala al suo pubblico, un altro protagonista della musica mondiale. Alle 21 ospiterà infatti nel Teatro Zancanaro di Sacile Richard Bona, uno dei più grandi bassisti americani di origine camerunense, vincitore di Grammy, compositore e polistrumentista. Con il suo suono unico e la sua voce porta sempre nella musica le origini africane, affrontando le tradizioni, la cultura, la bellezza e i problemi del suo continente. I suoi obiettivi e il modo in cui si rapporta con il pubblico lo hanno trasformato in un nome fondamentale nel mondo per il jazz e la musica afropop. A Sacile si esibirà con il talentuoso pianista cubano Alfredo Rodriguez, ricostituendo il duo che può essere visto anche nel documentario Netflix vincitore del Grammy Quincy, dedicato al leggendario produttore discografico Quincy Jones. Con loro salirà sul palco il batterista cubano Michael Oliveira. Insieme esplorano il rock, il jazz, il pop e quello che suona come una spolverata di pesanti ritmi afro-cubani, vagamente messicano-spagnoli, su un leggero, arioso duetto vocale. Celebri brani della tradizione jazzistica questa sera alle 20.30 al Teatro Bratus di Gorizia con il concerto del Pentatrio formato da Gabriele De Leporini, chitarra jazz, Riccardo Pitacco, basso elettrico e Francesco Vattovaz, batteria. Il repertorio dell'ensemble si compone di rivisitazioni di celebri brani della tradizione jazzistica e di composizioni più recenti, in programma tra gli altri brani di Pat Metheny, Chick Corea, John Scofield e Horace Silver, incluse composizioni originali ispirate alla luce di soluzioni armoniche e metriche nuove e sonorità tipiche del panorama jazzistico odierno. È in scena al Politeama Rossetti da oggi al 20 novembre Sette Spose per Sette Fratelli. Il musical ritorna a teatro in un'edizione accurata che da un lato ricalca fedele il film hollywoodiano e dall'altra fa l'occhiolino ai western di Quentin Tarantino. Una dimensione che Luciano Cannito, regista di esperienza nel mondo della lirica, del musical e dei grandi eventi televisivi, raggiunge orchestrando al meglio il talento di Diana del Bufalo e Batz. Li circondano una ventina di altri interpreti, tutti preparatissimi, mentre l'impianto scenografico conta sulle idee e la maestria di Italo Grassi e i costumi sono originali creazioni di Silvia Aimonino, che ha collaborato ai grandi eventi per le Olimpiadi di Londra e Sochi. Anche la stagione teatrale di Cividale del Friuli tributa un omaggio a Pierpaolo Pasolini per il centenario della nascita. Ospiterà infatti al Teatro Adelaide Ristore alle 21 Mio fratello partì in un mattino muto. Insieme al coro del Friuli Venezia Giulia, diretto da Cristiano Dell'Oste, sul palcoscenico cividalese saliranno Monica Mosolo e Massimo Somaglino, voci recitanti, Andrea Musto al violoncello, Marcello Bonna al contrabbasso, Giorgio Fritsch e Gabriele Rampogna alle percussioni, Matteo Andri al pianoforte. Il progetto prende l'avvio dal testo teatrale Turks dal Friuli, così come venne proposto nella sua prima presentazione nella chiesa di San Lorenzo a Venezia nel 1976. La rilettura del coro del Friuli Venezia Giulia ha voluto indagare maggiormente il rapporto tra i due fratelli protagonisti di Turks e il rapporto tra i due fratelli Pasolini nella vita reale, il contemplativo Paoli e il ribelle Meni del dramma del 1944, per arrivare a Pierpaolo e Guido impegnati in due modi diversi nella lotta di liberazione. Marco Paolini sarà protagonista oggi alle 20.45 nell'Auditorium Comunale di Lestizza, domani alle 21 al Teatro Italia di Pontebba e domenica alle 20.45 a Teatro Orsaria di Premariacco con il suo nuovo spettacolo Antenati, The Grave Party. Antenati è uno spettacolo legato al progetto televisivo La Fabbrica del Mondo, che prova a ripercorrere l'evoluzione della nostra specie attraverso l'incontro immaginato con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta della nostra specie provengono. Geppi Cucciari sarà la protagonista di Perfetta, l'ultimo monologo scritto dal compianto Mattia Torre, uno dei drammaturghi più attivi e apprezzati sulla scena teatrale, televisiva e cinematografica italiana degli ultimi anni. Moglie e madre, la protagonista del monologo, conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza solamente i martedì di 4 settimane differenti, giornate identiche nei ritmi diverse nella percezione. Lo spettacolo aprirà alle 20.45 la stagione teatrale dell'Odeon di La Tisana e sarà ospite domani, sempre alle 20.45 del Teatro Comunale di Monfalcone. Ultima giornata del concorso al 37° Festival del Cinema Ibero Latinoamericano di Trieste, al Teatro Miela. Fra gli appuntamenti in calendario in Sala Grande alle 9, la curiosa docufiction lusitano-uruguayana Periferic Nord, Via Norte, di Paolo Carneiro. Dal Guatemala alle 10.45 Il silenzio del topo di Anaïs Taracena ricostruisce la storia del giornalista Elias Barahona, alias El Topo, che negli anni 70, durante uno dei governi più repressivi della storia del paese centroamericano, era riuscito a infiltrarsi nei gangli del potere. Neruda fuggitivo è il titolo del film di Manuel Basoalto, nipote del grande poeta cileno, presentato alle 17.15. È la ricostruzione dei mesi trascorsi in esilio da Neruda dopo aver denunciato in Parlamento la violenza della polizia nel 1948. Al termine della proiezione, l'incontro con Manuel Basoalto. Dalle 19.30 gli ultimi due film del concorso ufficiale, fuori concorso, l'italo-argentino Il morso del ramarro di Maria Lodovica Marini, un giallo psicologico girato in Liguria. Il concorso ufficiale chiude alle 22 con il messicano Mostro di José Pablo Escamilla. Sarà un ospite speciale a introdurre la serata di corti al femminile della rassegna cinematografica Gli occhi dell'Africa alle 20.45 a Cinema Zero di Pordenone. Alle figure di donne in ogni età e provenienti da paesi diversi ritratte nei film, infatti, si aggiungerà la testimonianza dal vivo di Sabrina Efionai, scrittrice afrodiscendente, autrice di Addio a domani, libro che racconta la storia di una ragazza di origine nigeriana cresciuta a Napoli con due mamme e tra due culture. In occasione del 75° anniversario della riorganizzazione dei servizi della Polizia Stradale, la fanfara della Polizia di Stato si esibirà oggi ad Aquileia alle 10.30 in Piazza Capitolo, sul sagrato della Basilica Patriarcale, e alle 19 nel Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia. L'evento punta a sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto delle norme e ai corretti stili di guida. Sarà inaugurata alle 18 e aperta al pubblico da domani nella chiesa di San Francesco Udine la mostra Fotografia come testimonianza Friuli 1980-2000. L'esposizione è il frutto di un intenso lavoro di ricerca dell'IRPAC condiviso con diverse istituzioni pubbliche e private regionali e con fotografi che hanno collaborato con le principali testate dei quotidiani negli anni presi in esame come Alberto e Stefano Lancia, Diego Pedrussi e Nicola D'Agostino e altri che hanno lasciato una testimonianza della storia del Friuli attraverso i loro scatti come Ulderica D'Appozzo, Enzo Tedeschi, Luca Laureati, Carlo Innocenti. Corredano l'esposizione alcuni filmati messi a disposizione dalla Cineteca del Friuli e dalle Teche Rai, oltre un ricco catalogo fotografico con saggi di Claudio Domini, Paolo Medeossi e Alvise Rampini. Molti gli eventi descritti in questo progetto, dagli omicidi del Mostro di Udine alle visioni della Madonna Farà di Sonzo nel 1988, all'arresto di Fabio Savi, il killer della Uno Bianca a Tolmezzo. La mostra è visitabile fino all'8 gennaio del prossimo anno. È dedicata alle illustratrici e agli illustratori contemporanei del Friuli, la mostra che sarà inaugurata alle 17 nella Biblioteca Civica Monsignor Giuseppe Lozer di Budoia. Protagonisti sono i lavori di 25 artisti che hanno firmato la grafica di alcune fra le più note pubblicazioni della Filologica Friulana per il 2022. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 8 gennaio del 2023. Si parlerà del meccanismo concordato tra Hitler e Mussolini per regolarizzare etnicamente i territori germanofoni acquisiti dall'Italia dopo la Grande Guerra nella conversazione Heim ins Reich, opzioni a nord-est. L'incontro è in programma alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste, nell'ambito del ciclo Il Confine dentro il confine. Nell'incontro a cura di Luciano Santin verrà proiettato il film Valcanale 1939, la grande storia nel destino di una piccola valle, realizzato da Lara Magri, curatrice del Museo Etnografico di Malborghetto. Il Centro Balducci di Giugliano ricorda Don Pierluigi di Piazza, che in questi giorni avrebbe compiuto 75 anni, con una serie di appuntamenti. Oggi alle 18, nella sala Monsignor Luigi Petris del Centro, il messaggio di Ernesto Balducci tra memoria e futuro, la presentazione di un docufilm sulla vita di padre Ernesto Balducci e del volume speciale Testimonianze numero 543-544 per il centenario della sua nascita. Tra due giorni si aprono i campionati di calcio, collocati per la prima volta tra novembre e dicembre. Uno che ha seguito ben 9 edizioni dei mondiali per la Rai è il cormonese Bruno Pizzul. A lui abbiamo chiesto un parere su questo campionato del mondo che sta per iniziare senza l'Italia. Bruno, che mondiali saranno? Sono mondiali indubbiamente strani, no? È chiaro che nel momento in cui volessimo soffermare la nostra attenzione sull'opportunità e di carattere temporale e di carattere territoriale, salterebbero fuori un'infinità di riserve, a cominciare dalla sensazione nettissima che si sia arrivati a questa soluzione unica e non certo ottimale solo perché viaggiavano i petrodollari in modo anche esagerato. E d'altra parte anche il Qatar non è sicuramente un territorio che sia privo di qualsiasi problema per quanto riguarda i diritti civili e via dicendo. Anche si dice che il modo in cui sono state trattate le maestranze per costruire questi stadi e via dicendo era un modo assolutamente incivile. Però si chiude un occhio, ci si tappa il naso e si va avanti così. Ieri l'esordio di Pafundi, il più giovane ad indossare la maglia della nazionale negli ultimi 100 anni. Rischia di essere bruciato? No, io spero di no. Sicuramente gli hanno messo un fardello sulla schiena difficile da sopportare, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il ragazzo ormai è sotto gli occhi di tutti e pertanto sarà continuamente sottoposto a una pressione che però mi pare di poter dire, per quel po' che lo conosco, sta sopportando abbastanza bene. Non ha un grande fisico, però è chiaro che se uno ha talento sufficiente può sfondare così. Maradona, Messi non sono mai stati dei giganti, però bisogna essere Maradona e Messi poi come contenuti di carattere tecnico. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. 7:49 minuti e 50 secondi, iniziamo la rassegna stampa. Medici, infermieri in fuga dai reparti, 150 di in un anno, e questo è il titolo di prima pagina del Piccolo di Trieste. Nella fotografia e con titolo della parte alta si fa il punto della vertenza Varzila con il resoconto del tavolo ministeriale di ieri. Tra i richiami della colonna di destra alle prove del tram di Opicina, il rinvio a giudizio del giovane accusato dell'omicidio di un minorenne a Trieste, l'iniziativa di promozione del golf con la campionessa triestina Giulia Sergas e il bilancio dei crocieristi delle navi bianche. Il capocronaca di Trieste è dedicato al tavolo ministeriale su Varzila. Il Messaggero Veneto apre con il tema delle scuole senza soldi. Calano i contributi volontari versati dalle famiglie e si fermano i laboratori. I primi casi al Malignani e allo Stringer, e si fa strada l'ipotesi di riservare i servizi aggiuntivi extrascolastici solamente a chi versa la quota. In prima pagina spazio anche alle proteste dei conducenti di autobus per i turni massacranti e dei vigili del fuoco di Cividale per la carenza di personale, mentre protagonista delle cronache sportive è Simone Pafundi, terzo italiano più giovane a esordire con i grandi. Sanità in evidenza anche sul Gazzettino di Udine, che dedica un richiamo in prima pagina al pronto soccorso, dove gli accessi sono più numerosi che a Trieste, a fronte di un minor numero di medici. Per la cronaca, la vicenda del sequestro di droga e piante di marijuana coltivate in casa, che coinvolge padre e figlio, e gli studenti in piazza, oggi a Udine, per chiedere scuole più sicure. Infine lo sport, con il rinnovo del contratto fra l'Udinese e il centrocampista brasiliano Wallace e il giovane talento Simone Pafundi, raccontato dai genitori. Nell'edizione goriziana del Piccolo la foto con titolo si occupa dei numeri dei crocieristi a Monfalcone, aumentati del 20% in un anno. Tra i richiami di prima pagina la cantante Lisa accanto a Legambiente per la festa dell'albero. Capocronaca di Gorizia sullo stato di agitazione a Palazzo di Giustizia, le carenze d'organico riguardano tutti i settori. In prima pagina di Monfalcone il Piccolo fa il bilancio delle crociere, 500.000 persone tra passeggeri ed equipaggio nel 2022. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto punta sulla notizia della scelta di realizzare il nuovo centro per l'impiego in quella che era la sede di Idrogea nel centro direzionale Galvani, il cosiddetto Bronx. Nelle pagine interne, sempre in tema di sedi, l'inaugurazione della nuova sede UNICEF nei locali dell'ex provincia, che sono ormai la casa di numerosi enti e associazioni. Poi ancora lo sgombero delle aree ex Parini e Concordia, trasformate in bivacchi, e la storia del nonno pasticcere che insegna i suoi segreti ai bambini della scuola materna. Il Gazzettino riporta in prima pagina la notizia della ricandidatura del presidente della regione Massimiliano Fedriga, sostenuto da tutto il centrodestra, mentre a Pordenone il sindaco Alessandro Ciriani assicura che non aumenterà le tasse per far fronte ai rincari che colpiscono anche le casse degli enti pubblici. Di taglio, nelle pagine della cronaca della destra tagliamento, gli ospedali ancora prigionieri delle norme anti-Covid, mentre a Sacile la soluzione dell'ASFO per i pazienti orfani del medico di base è quella di affidarli al medico di guardia. Infine la storia del salvataggio di un capriolo scivolato in una vasca. C'è spazio per qualche altro appuntamento odierno. La questione animale 20 anni dopo con il filosofo Leonardo Caffo è il tema dell'incontro in programma alle 18 nell'ambito della mostra AAA Animal Among Animals, Towards the World to Come, alla Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Spazzapan di Gradisca di Sonzo a cura di Gabi Scardi e Rave East Village Artistry Residency. Questo pomeriggio alle 18.30 all'antico caffè San Marco di Trieste Vincenzo Santoro presenta il suo libro Il tarantismo mediterraneo, una cartografia culturale. Dialoga con l'autore e lo scrittore Alessandro Bozzi. Sarà presentato alle 18 alla libreria Tarantola di via Vittorio Veneto a Udine il nuovo libro di Cristiano Caracci, 800, il congresso di Vienna e l'Adriatico tra Venezia e Ragusa. L'autore dialogherà con il giornalista Giampaolo Carbonetto. In occasione dei 25 anni di attività divulgativa storico-culturale nel ricovero antiaereo Kleine Berlin, il gruppo alpinistico triestino presenta il libro Kleine Berlin, una storia per immagini. L'appuntamento è alle 17.30 nella sala conferenze Ennio Gerlizza in via Fabio Severo a Trieste. Sarà inaugurata alle 17.30 nella galleria Eng Contemporanei di Trieste la mostra di Roberta De Bernardi in arte Hana, intitolata Ivanu Ha Hana, frase giapponese che significa non dire è un fiore. La mostra richiama l'essenzialità delle parole e delle cose come nell'arte e nella cultura nipponica, molto amata dall'artista. Inaugurazione alle 18 nella Biblioteca Civica di Pordenone per la mostra La Sintesi delle Forme, esposizione delle opere pittoriche di Rosanna Morettin, artista che nella sua pittura predilige la carta, carta strappata, accartocciata o sciupata, come se quegli strappi fossero l'identità che determina la storia dell'esistenza di ciascun individuo. La mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio prossimo. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 il consueto appuntamento con Vue o Favelindì che parlerà di mercati di Campagna Amica. Alle 11.20 andrà in onda un tranquillo weekend da paura. I programmi regionali torneranno alle 13.30. Termina la prima edizione odierna del giornale radio regionale, edizione redatta da Lara Zani e Paolo Roncoletta, assistenza tecnica in regia di Mauro Cumin e Walter Bidonis, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Appuntamento alle 11.05 per l'edizione flash, alle 12.30 per quella meridiana. Dopo la sigla c'è l'Onda Verde, grazie per l'attenzione e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.